La sere. O sin suna lontan l'Ave Marie. Il vielinono agliava il sochiapiel. Un altre di e partis, e schiampe vie. E ven la sere, e ven la calme e il biel. Il cila si scuris e si puntine. Milions di stelis tacin alusi. Si sin passa une dolce ariute fine. Si a voe che il tim si fermi sempre lì. La sere l'el mio tim di un'esornade. La sere, quanche tutta le cuiet. Si a gust di la chiatali innamorade. Si a gust di un poc di chialt, di un poc di afiet.